joy, these sensations make me feel the pleasures of a normal man. New sensations, barely answers, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Inizia Disorder come ogni venerdì da adesso sino alle ore 17. In palinsesto prevete dopo Disorder, Take It Easy alle 17.30, alle 18.30 alle ore di religione, alle 19.30 lo spazio informativo e alle 21 Solaris. 06 49 17 50 il contatto telefonico e il nostro sito internet anche per sentirci via streaming è www.ondarossa.info. Vado anche a ricordare naturalmente il conto corrente postale fondamentale per la nostra vita, che risponde al numero di 61 80 40 01, che va intestato Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Viale Volsci 56 00185 Roma. Ebbene, si va ad iniziare con una attesissima uscita appartenente a un artista islandese e naturalmente sto parlando di Björk. Dopo qualche annetto esce un suo nuovo lavoro che porta il nome di Vulnicura o Vulnicura, chissà. Un lavoro che si snoda più o meno con gli stessi intendimenti del passato, quindi un suntuoso uso di archi, anche un po' barocchi se vogliamo, e anche l'alternanza di suoni elettronici, di breakbeat, di accenni di jungle, di elettronica in genere. Cominciamo a farne conoscenza con il brano di apertura che si chiama Stone Milker. Shannon Faye. Find our mutual coordinates. Moments of clarity are so rare. I better document this. At last abbiamo cominciato a conoscere. L'ultimo lavoro di Björk si chiama Vulnicura, una delle uscite più importanti per questo inizio di 2015. Intanto salutiamo Cristina all'ascolto. Dunque, gli elementi sono sempre quelli, ma ben congegnati, ben omogenizzati in questo lavoro. Stone Milker, una traccia che, come molti passaggi di questo album, mi hanno ricordato per esempio Homogenic, un bellissimo lavoro di ormai di molti molti anni fa. E quindi un album che conosceremo meglio anche nelle prossime settimane. Adesso si torna indietro nel tempo. Ci andiamo ad ascoltare quello che venne dopo la fine dei Joy Division, ossia New World. Questo lavoro di qualche annetto fa si chiama Get Ready, dal quale ci andiamo ad ascoltare Crystal e Rock the Shack. 2001 dunque usciva questo Get Ready, un album, diciamo, tra gli album più rock dei New Order. Un album che uscì a distanza di 8 anni da Republic del 93, quindi qualche annetto di silenzio, uscì questo interessantissimo Get Ready, che vedeva anche la partecipazione dei Primal Scream, e infatti l'approccio rock non è casuale. D'altronde in quegli anni gli stessi New Order collaborarono per l'appunto con i Primal Scream e anche Chemical Brothers. Salutiamo il buon Matteo all'ascolto di Disorder, ricordo Disorder, questo spazio in onda ogni venerdì qui dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Dunque un saluto a Matteo. Qui il suono invece nella prossima proposta si fa molto più cupo ed elettronico, si chiamano Odessa, un sotterraneo progetto francese della metà degli anni 80, riesumato dalla da questa etichetta francese che si chiama Brouillard Definitif. Questa in realtà è una compilation che racchiude quei pochi singoli che fecero gli Odessa in quegli anni. Ci ascoltiamo Conrad the Trouble. Fremont.